cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Insomma, hanno vinto tutti. Doveva essere la domenica delle trappole contro le provinciali. Abbiamo passato tutta la vigilia a fare i conti di chi aveva perso più punti contro chi, dove, contro chi è capoluogo di regione, di provincia, neopromossa. Adesso vediamo cosa fa il Milan a Frosinone, partita dalle 18 che seguiremo in diretta. Vediamo poi cosa fa questa sera l'Inter contro la Lazio. Però fin qui la domenica dice che ha vinto la Juventus contro il Carpi, ha vinto il Napoli a Bergamo, ha vinto la Fiorentina contro il Chievo, ha vinto anche la Roma contro il Genoa, e forse in questo momento è la notizia da cui partire, insieme al fatto che in Serie A c'è un marziano, un extraterrestre che risponde al nome di Gonzalo Higuain. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Saluto anche Alessandro Boccalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Ciao a voi, buonasera a voi ascoltatori, ciao a tutti. C'è un extraterrestre, io non so se si può trovare un appellativo diverso per Higuain che abbiamo visto oggi, ma che in generale abbiamo visto in questo scorcio di 2015. Ah, dubbio, se dice a me, io sottoscrivo assolutamente, nel senso che è un giocatore che fa completamente la differenza rispetto agli altri, pure in un campionato di buoni attaccanti, perché Mandzukic sta facendo vedere di essere un ottimo attaccante, ma Higuain è di un'altra categoria rispetto a tutti. Sì, posso lanciare una provocazione? Si può perdere lo scudetto avendo questo Higuain? Non so, chi mi vuole rispondere? Carlo, ma poi il direttore? Chiaramente il Napoli ha bisogno di riposo, di vacanze, come un po' tutti gli altri, perché anche oggi lo abbiamo visto parecchio in difficoltà, lo abbiamo visto passare in vantaggio e poi subito essere raggiunto dall'Atalanta, poi ovviamente c'è quel mostro di Higuain. Il Napoli può certamente vincere lo scudetto, però avrà bisogno anche di qualcosa sul mercato di gennaio, io credo. Ma credo anche che, insomma, sarà difficile vedere le grandi squadre, questo è un discorso generale che prima Giovanni ha introdotto, sarà difficile vedere le grandi squadre che perdono punti con le cosiddette provinciali, perché né l'Inter, né il Napoli, né la Juventus, nella stessa Fiorentina hanno questa caratteristica. Sì, cioè, anche se fin qui le differenze di classifica, insomma questa settimana, ripeto, abbiamo letto classifiche di tutti i tipi, sono state scavate proprio da quello. Direttore, con questo Higuain si può perdere uno scudetto? Beh, questo diventa un tema oggi. No, assolutamente un tema, però sì, ci sta nella storia dei campionati che pure squadre che pur avendo il centravanti più forte non riescono a vincere, perché dall'altra parte magari sono squadre che mediamente sono forti altrettanto, se non di più. Io penso alla Juve, perché tu dici giustamente Higuain da una parte è un extraterrestre, però dall'altra parte penso c'è una squadra come la Juventus in cui due giocatori come Morata e Zaza, che secondo me sono due ottimi giocatori, quasi non vedono mai il campo in questo momento, per cui pure quello fa la differenza, avere l'extraterrestre ma avere anche dei grandi giocatori che sono in questo momento delle alternative. Cosa prenderesti per il Napoli sul mercato? Prenderei un centrocampista importante. Io credo che il Napoli possa essere rinforzato lì, credo possa aggiungere qualcosa in mezzo al campo, soprattutto perché il Napoli secondo me è una delle candidate a poter vincere l'Europa League, che è un torneo molto dispendioso, che però porterà via energie e ti farà giocare molte partite, per cui un rinforzo lì, che possa essere un titolare aggiunto, potrebbe essere che possa dare respiro a Giorginio. Non si può continuare a giocare in 13 come sta facendo oggi Napoli. Aspettate che vi faccio sentire una battuta di Andrea Della Valle, microfoni di Sky. Il sogno che continua, dietro c'è una grande programmazione, c'è un grande allenatore, mi reputo anch'io un ottimo presidente, che ha avuto tante scelte anche coraggiose quest'estate, che adesso ci stanno un po' ripagando. Però credo che siamo veramente in un bel percorso. L'importante è che i nostri tifosi siano orgogliosi, che il progetto veramente. E tra l'altro è serio. La Fiorentina allora, è. Questo è Andrea Della Valle, Fiorentina che in questo momento è seconda in classifica, lo rimarrà, a prescindere da quello che accadrà nelle 4 partite che mancano alla fine di questa 17ª giornata. Poi tutti a mangiare il panettone. A proposito di panettone, allora 800 24 00 24, tutti gli amici da casa convocati, oppure via SMS, via WhatsApp 349 238 6666. Mi intriga quella domanda che abbiamo fatto su Higuain, cioè se il Napoli può perdere lo scudetto con questo attaccante. L'altra domanda però, e coinvolgo Alessandro Vocalelli, è se Garcia si è guadagnato il panettone o no, vincendo oggi all'Olimpico 2-0 contro il Genoa, in un Olimpico deserto che ha contestato con l'abbraccio dei giocatori dopo il gol di Florenzi. Io non so che significato si può dare a quella scena, direttore. Ma il significato è che comunque la squadra è con Garcia, cioè, su questo non c'erano dubbi. Il problema è che non c'era la squadra in questo momento, cioè, non è che il calcio non è fatto semplicemente di affetto, di feeling, perché per carità nessuno ha mai pensato che la Roma non giocasse per Garcia. Il problema è che la Roma alcune partite l'ha giocata clamorosamente, ma giocando in una maniera veramente desolante. La domanda è: io qualche dubbio ce l'ho avuto, però, direttore, ce l'ho avuto qualche dubbio strada facendo che la squadra fosse con Garcia. No, io credo di no, credo che sia proprio una squadra a cui mancano in questo momento collegamenti, cambi, idee, gioco, manchi un po' tanto. E il paradosso della Roma è che Garcia, da una parte si dice che appunto non è sicuro di rimanere, però come si fa? Cioè viene confermato dopo l'eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia e poi magari è tornato per aver battuto 2-0 il Genoa. Insomma, la Roma si è infilata in uno strano tunnel, secondo me, fatto di contraddizioni e di indecisioni da cui fatica a venire fuori, perché comunque, diciamolo, anche oggi la Roma ha faticato, poi ha vinto, però insomma non è che si è vista una squadra improvvisamente in salute. Si è vista la Roma una squadra completamente. Si è ficcata in questo tunnel in estate confermando Garcia sotto condizione, perché bravo, non tutti erano convinti della permanenza dell'allenatore francese. Alla fine gli è stato fatto un contratto, lo dico ogni giorno, all'americana, perché sorprende la durata così lunga del contratto di Garcia fino al 2018, ma in America si fa così. E quindi con un tecnico sotto condizione è chiaro che ogni cosa diventa terribilmente difficile. Sì, un allenatore a cui tu hai sfiduciato in estate dicendogli e la preparazione non la fai più te, la preparazione è comunque uno degli aspetti fondamentali di un allenatore, eppure è stato delegittimato in questo senso, però confermato. E appunto oggi c'è, come dicevate prima, una strana situazione in cui alcuni lo vorrebbero mandare via, alcuni lo vogliono tenere, alcuni vogliono eventualmente un sostituto, alcuni ne vogliono altri, e la Roma è vittima e prigioniera di questa sua indecisione. Guarda, abbiamo lanciato su Twitter, chiocciola tutti convocati, il nostro sondaggio. Garcia adesso va confermato o esonerato, spaccata in due la tifoseria, 51% esonerato, 49% confermato, ma insomma è il segno che c'è ancora grande caos sotto il cielo di Roma. Nel caos io inserisco anche quella scena poco edificante, direttore, che abbiamo visto di Edin Dzeko, evidentemente probabilmente convinto che Gervasoni non conoscesse le basi dell'inglese, perché digli due volte fuck off in faccia equivale a chiamarsi un cartellino rosso, che poi è arrivato, che priverà la Roma del suo centravanti per diverse settimane. È chiaramente la un centravanti oltre l'orlo di una crisi di nervi, sì, abbondantemente. Tra l'altro credo, non vorrei dire una sciocchezza, ma credo sia la sua prima espulsione in carriera, per cui è un giocatore che non sa di questi colpi di testa, no? Come dicevate, è veramente andato oltre la crisi di nervi, perché prima prova a cercare un rigore che non c'è, poi appunto insulta l'arbitro proprio a un metro, insomma, lasciando la squadra in un momento critico in 10, è veramente una cosa che non è da un giocatore, oltre che di quella bravura, anche di quell'esperienza. Sì, assolutamente, grazie direttore. A voi, buona giornata a tutti. Grazie a Alessandro Vocalelli, direttore del Core Sport. C'è l'extraterrestre su Sky. È Natale in un campo difficilissimo, per questo siamo felici, siamo con la tranquillità che abbiamo fatto tutto, abbiamo vinto una partita difficilissima e bueno, adesso andiamo alla sosta e speriamo tornare più forte che prima. Senti, avevi detto recentemente il peggior avversario che possiamo incontrare siamo noi stessi. Oggi è una partita scomoda, sporca, come la chiama Sarri, e siete andati oltre anche al vostro gioco. Probabilmente non avete disputato la migliore partita, però comunque con la cattiveria, con la rabbia siete riusciti a portare a casa questo risultato. Poche squadre ho visto fare una grandissima partita di qualità qua. Credo che noi l'abbiamo fatto e più questo abbiamo corso tantissimo, credo che si è visto in campo e si è visto nel risultato. Questo è Higuain, 16 gol nelle prime 17 giornate del campionato di Serie A, 51 in 86 presenze con la maglia del Napoli, sempre stiamo parlando di campionato. Un amico, Steve, ha scritto 3492386666 via WhatsApp: per me Cavani era migliore di Higuain. Non lo so. Sì, nel ciuffo probabilmente, pettinatura di Higuain rivedibile, come sì, possiamo notare anche da queste immagini. Ma Cavani era meglio di Higuain nella capigliatura. Per quanto riguarda tutto il resto, non scherziamo, ragazzi. Sì, credo che stia abbondantemente entro i primi 5 centravanti che ci sono, 5 attaccanti che ci sono oggi in giro per il mondo. Il problema è che 3 giocano nel Barcellona, ma poi sì, ne parleremo. Abbiamo tempo. 800 24 00 24. Torniamo subito dopo il traffico. Higuain, se nel suo futuro non vince il pallone d'oro, è una testa di cazzo. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24, diteci cosa ne pensate di come è andata fin qui questa giornata, aspettando anche Inter-Lazio, aspettando Frosinone-Milan, aspettando di capire qual è il destino di Rudy Garcia. Tra poco lo sentiamo in diretta. C'è chi scrive al 349-238-6666 per chiedere se siamo ancora dell'idea che la Juve sia fuori portata a scudetto. La Juve ormai è rientrata nel giro scudetto già da un pezzo, cioè mi sembra una domanda un po' datata questa, no, ma anche se cammina infatti sul filo, in realtà quando tu parti da così dietro poi non ti puoi mai permettere di sbagliarti, e però, oggi insomma, la Juve un paio di distrazioni le ha avute. Vabbè, ma vale anche per la Juventus il discorso fatto prima, sono squadre che hanno bisogno di un attimo di respiro, perché gli errori difensivi della Juventus di oggi dimostrano come, soprattutto quando arrivano da un giocatore affidabile come Bonucci, dimostrano come è chiaro che gli sforzi fatti, campionato, Champions League, la rimontare non è mai facile, proprio per questo, perché non, cammini su un filo e non puoi sbagliare mai, e quindi anche la Juventus ha bisogno di un attimo di respiro e poi anche di recuperare alcuni giocatori, perché non dimentichiamo che ha giocato per molto tempo con diversi giocatori importanti fuori per infortunio. Gianni da Firenze, Gianni. Sì, buonasera. Buonasera. E complimenti, grande programma, è vostro. Grazie. Io vorrei ascoltarvi anche il sabato, perché poi il sabato vado in astinenza senza di voi. Mandi una mail al direttore. Crisi d'astinenza. Prego, Gianni. Farò domanda, sì. Volevo sapere. Mandi una raccomandata ricevuta ritorno. Voglio sapere cosa ne pensate voi di quest'Inter che c'è tutti stranieri, non c'è neanche un giocatore bandiera italiano. Secondo me è una squadra non c'è neanche un italiano, come si fa poi dopo fare? Come facciamo col Napoli, che credo ne abbia uno, Insigne, forse ha solo Insigne oggi in campo, adesso sì, magari mi sbaglio, ormai c'è Giorginio che è naturalizzato, però ormai come facciamo? Facciamo così, ormai all'alba del 2016 quasi, dov'è? È caduto. No, direi però che all'alba del 2016 ormai dobbiamo grosso modo rassegnarci, anche se questa parola non mi piace, dobbiamo capire che i giocatori è meglio distinguerli tra quelli bravi e quelli brocchi, che poi vengano se vengono dal nostro paese, dai nostri settori giovanili, siamo tutti più contenti, però al massimo livello professionistico, la Serie A di calcio, la Liga, la Premier League, dove non mi sembra può, che non è che ci siano tutti, così, cioè, tutti questi inglesi di formazione, insomma, oggi al massimo livello professionistico possibile in ogni sport i giocatori li distinguono tra quelli bravi e quelli brocchi. No, ma anche il Real Madrid davanti è praticamente solo stranieri, ma sì, un portoghese, un francese, un colombiano, e non mi sembra ormai che mi dispiace dirlo, poi si arrabbiano tutti, però sono distinzioni un po' di retroguardia. Detto che poi è giusto il ragionamento che fa Conte quando racconta della difficoltà. Aspettate che c'è Florenzi, microfono di Sky. Intanto saluto Pierpaolo Marino, grazie Marino. Buonasera. Sentiamo un attimo Florenzi. Florenzi. È stato un gesto spontaneo che al di là del mio gol, chiunque avesse fatto gol, anche se l'avesse fatto Wojciech, tutti saremmo andati insomma verso la panchina, verso il mister, verso gli altri giocatori che soffrono insieme a noi e che si allenano tutti i giorni e danno veramente il 110%. Quest'oggi penso si è visto il gruppo che siamo e abbiamo dato veramente una grandissima risposta. Allora, questo è Florenzi, parlava della grande corsa, l'abbraccio a Rudy Garcia dopo il gol del vantaggio della Roma. Io chiedo a Pierpaolo Marino, un dirigente come lo interpreta? Cioè, oggi sul tavolo della Roma c'è la questione, a prescindere dalla vittoria, dell'esonero o meno dell'allenatore. Come si interpreta quello che è successo oggi, Marino? Diciamo che c'è poco da interpretare, perché c'è una testimonianza di solidarietà da parte dei giocatori nei confronti del tecnico, però non sempre la solidarietà nei confronti del tecnico, che diciamo così è sinonimo di un feeling, poi dopo collima con quello che deve essere la ricerca del risultato che una società e una squadra devono fare, perché ci vuole il giusto equilibrio fra il feeling e i risultati. Quindi Sabatini e Pallotta se ne devono fregare se oggi i giocatori hanno abbracciato Garcia, cioè se hanno in testa di esonerarlo comunque non devono badarci. Potrebbe essere il momento corretto, no? Ma io non voglio andare sulla dietrologia di pensare se lo vogliono esonerare o non lo vogliono esonerare, perché mi piace pensare che i giocatori non esonerino gli allenatori e che la società lo debba fare in base ai risultati e dei segnali che ne riceve. Ora c'è un segnale positivo di giocatori che sono solidari con l'allenatore, però ripeto, a volte io ricordo di aver vinto uno scudetto con Bianchi a Napoli, mentre i giocatori alla partita del festeggiamento gli gridavano che se ne doveva andare. Cioè, quindi non sempre diciamo l'obiettivo del risultato collima con la solidarietà dei giocatori. Scrive Antonello con la cosa che la Roma non ha squadra, l'ha detta prima il direttore del Corriere dello Sport, Vocalelli non si può sentire, semmai non ha l'allenatore. Beh, manca anche qualche tassello, manca dal qualcosa, punto di vista, ecco, della squadra, diciamoci la verità. Perché fare il processo solo a Garcia forse è sbagliato, c'è chi non ha preso un centrale pensando che Castan rientrasse. Bravo, è una parte del problema, solo una parte. Sì, sicuramente diciamo che la Roma ha una defaianza, ad esempio, nel terzino destro che è evidente, ha diciamo centrali difensivi in difesa che forse non sono all'altezza di una squadra che deve lottare per il titolo, però diciamo questi limiti non implicano le figure che la Roma ha fatto negli ultimi tempi, e io a quello mi riferisco, perché uscire in quella maniera con lo Spezia, cioè se noi mettiamo i giocatori della Roma in dubbio che possano vincere una qualificazione con lo Spezia in Coppa Italia, cioè sì, ha ragione Pallotta che si è definito disgustato, cioè c'è un limite a tutto, anche alle difficoltà di una squadra. Il Napoli può perdere lo scudetto con questo Higuain? Io ripeto i numeri, 16 gol in 17 partite, che poi fanno 51 in 86 presenze in campionato con la maglia del Napoli, un extraterrestre oggi a Bergamo l'ha praticamente vinta da solo, malgrado Hamsik ci abbia provato in tutti i modi a non farla vincere al Napoli, ha tirato un rigore sulla traversa e gli è andata bene, uno l'ha sparato sui monti della Bergamasca. Si può trovare un rigorista per il Napoli? Si può trovare Marino un rigorista per il Napoli? Un normale rigorista, uno che ne sbaglia ogni tanto, mica uno che segna sempre. Davvero, ma quella maglia, con quella maglia lì i rigori pesano. Io ricordo anche Diego Maradona sbagliò un rigore decisivo con me nella qualificazione a Tolosa in Coppa UEFA ai rigori. Sì, è difficile tirare un rigore con la maglia del Napoli, però Hamsik si è rifatto con l'Hamsik con l'assist a Higuain in occasione del terzo gol, e secondo me ha disputato un'ottima partita. Ora è ingiusto, no, ma sta giocando su ottimi livelli. È una questione curiosa, Pierpaolo, mica altro. No, Higuain l'anno scorso ne ha sbagliati 5, appunto. Cioè non sarebbe non il caso di tornare a dare a Higuain il pallone sul dischetto, visto che no, in questo momento non sbaglia praticamente mai in nessuna situazione. Ma la domanda di Giovanni è: può il Napoli perdere lo scudetto con un mostro così? Questo qui è un giocatore che lo può far vincere. Io guardo l'altro lato, perché secondo me questo è un giocatore che, fatte le debite proporzioni, non voglio dire in campo, dove comunque fa la differenza e i tempi sono diversi, però per come si mette il Napoli sulle spalle mi ricorda il mio Diego Maradona, quello del mio Napoli, cioè quel giocatore che gli altri 10 in campo sono convinti possa risolvere la partita in qualsiasi momento, per cui ci credono anche quando la partita si fa difficile, si fa durissima. Oggi ho visto un Napoli grandissimo vincere a Bergamo, dove non è facile, e lo ha fatto con grande personalità, lottando, sacrificandosi, e ho visto anche, devo dire, un Mertens che è un peccato tenerlo in panchina, perché quando entra veramente è devastante. Sì, è un peccato anche che il Napoli giochi in 13. Io ho fatto due conti prima che finisse la partita, ci sono gli 11 titolari, quelli anche di oggi, poi c'è Mertens, c'è David Lopez, tutti gli altri sono, hanno le briciole di spazio. Cosa prende sul mercato il Napoli? Cosa deve prendere per rendere un po' più concreta? Perché Sarri mi sembra ieri non abbia usato giri di parole per dire che aspetta qualcosa di importante. Fatto bene Sarri, perché altrimenti alle prime sconfitte di febbraio, toccando ferro, se verranno, la gente glielo rimproverà di non aver chiesto giocatori, perché ora in questa lotta per lo scudetto, che forse è la più bella degli ultimi 10 anni, perché c'è una classifica cortissima, la differenza la farà proprio il mercato di gennaio, perché queste squadre potranno trovare un valore aggiunto da questi 30 giorni, 31 giorni di mercato, per fare veramente la differenza, perché io dico sempre che poi da marzo in poi le squadre non le faranno più gli allenatori, ma le faranno i medici sociali e i giudici sportivi. Ma proprio per questo è d'accordo che forse sono Napoli e Inter quelle che possono crescere di più? La Juve ha già una rosa stratosferica. Sì, sì, sono quelle più perfettibili. Io direi il Napoli. Sì, addirittura il Napoli più dell'Inter, perché l'Inter in Coppa Italia ha dimostrato nella partita col Cagliari di avere comunque degli ottimi ricambi. Il Napoli invece ha un paio di ruoli dove non ha ricambi che sono della stessa potenzialità dei titolari, mi riferisco a centrocampo e in difesa. Sì, ripeto, non si può giocare tutta la stagione in 13. Grazie Marino. Grazie direttore, prego. A presto. Grazie, buona serata, grazie per Paolo Marino. Ciao, Pierpaolo. Poi ovviamente c'è anche Kalinic nella lista dei centravanti con cui è difficile non centrare gli obiettivi. Kalinic oggi è arrivato a quota 10 gol, chi ci avrebbe scommesso? Poi parliamo anche della Fiorentina, abbiamo sentito prima della Valle, c'è Ermanno dalla provincia di Trento, cui chiedo ancora un attimo di pazienza perché abbiamo la pausa. C'è la formazione ufficiale del Milan e c'è una novità secondo me importante, perché c'è una bocciatura eccellente in Coppa Italia, era fuori per qualche linea di febbre, oggi è ancora in panchina. Torniamo subito, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ancora più presenza, ancora più informazione, ancora più storie, ancora più ascolto. Per noi è questa la vera festa. Tanti auguri da Radio 24, perché la passione si sente anche a Natale. Tutti convocati. 800240024. Allora, l'escluso eccellente è Luis Adriano, che è in panchina a Frosinone per Frosinone Milan, con Bacca gioca Niang, così come in campionato contro la Samp, così come in campionato a Carpi, non era certo stato il peggiore. Poi Mihajlovic aveva rimesso Luis Adriano a fianco a Bacca, perché si diceva Luis Adriano fosse quello ideale per far giocare bene Bacca. Ora si torna al 4-4-2 con Niang e Bacca davanti, Milan che gioca con Donnarumma in porta, Abate, Alex, Romagnoli e De Sciglio in difesa, Ondà, Bertolacci, Montolivo, Bonaventura e poi, come detto, Bacca e Niang. 800240024, Ermanno dalla provincia di Trento, eccoci Ermanno. Buonasera, io sono un milanista fin dal lontano 68, quindi ne ho passate di tutti i colori. Non è peccato, Ermanno. Com'è? Non è peccato. No, no, ecco, e mi sono anche divertito gli ultimi, non gli ultimissimi anni, ma gli altri 20. Io quello che chiedo, sono disponibile anche ad aspettare un periodo con una squadra giovane, però vorrei vedere che si vedesse un minimo di gioco. La domanda che vorrei fare a voi tecnica è questa: com'è possibile creare un qualsiasi tipo di gioco continuamente rimescolando le carte? Niang un colpo a destra, un colpo a sinistra, un colpo al centro, un colpo davanti, un colpo dietro, Bonaventura stessa cosa. Io credo che più che un Harry Potter ci servirebbe uno che semplicemente sia capace di fare un puzzle e quando una pedina è al suo posto rimanga lì, poi pian piano si sistema le altre. Sì. Continua a rivoluzionare, mi domando come si fa a creare un gioco. Ma ci sono anche tante pressioni, intorno a quella squadra. Una settimana fa, Ermanno, eravamo qui a raccontare che doveva giocare Luis Adriano con Bacca perché Bacca è stato pagato 30 milioni di euro e andava messo nelle condizioni di rendere al massimo. A parte che Bacca sta rendendo in maniera più che dignitosa, i suoi gol li fa, il problema di questo Milan non è certamente Bacca. Ha fatto 7 gol, credo, insomma, vuol dire una proiezione tra i 15 e i 20 a fine stagione. Mm-hmm. In questo Milan non mi sembra un numero da buttare via. Ripeto, non credo che il problema del Milan oggi sia Bacca, credo che i problemi siano altri. Non è quello principale di sicuro. Però Niang ad esempio era entrato e aveva avuto un certo impatto. La domanda è: perché spostarlo a metà campo sulla fascia se ha reso bene la seconda punta? Oggi torna a giocare da seconda punta per scelta tecnica, mentre con la Samp in Coppa Italia era per qualche linea di febbre, non lo so, vediamo. Francesco da Ravenna, Francesco. Buonasera. Eccoci. Poi vi do anche le formazioni di Torino Udinese e Sampdoria Palermo, Prego. Sì, io volevo intervenire sul discorso esoneri sia Garcia che Mourinho pochi giorni fa. Sì. Io credo che al di là dell'allenatore in sé, che onestamente non penso si possa dire né che Mourinho né che Garcia siano allenatori scarsi, c'è da discutere i progetti sportivi di quelle due squadre. Voglio dire, la Roma ha cambiato 3 o 4 allenatori, adesso non ricordo, in 5 anni. Il Chelsea, con un allenatore come Mourinho, che dopo 3 anni si sa che brucia le squadre, gli va a fare un contratto da altri 4 anni senza rinnovargli la squadra. Sì. Cioè, anche le dirigenze dovrebbero capire un attimino cosa vogliono fare. Cioè, alla fine le grandi squadre le fanno le grandi società. Gli allenatori sono dei finalizzatori del lavoro della società, ma a monte non c'è chi ti costruisce la squadra in maniera adeguata. Forse invece che cambiare allenatore tutti gli anni bisognerebbe rivedere un po' le politiche sociali. Sì, questo è assolutamente legittimo, poi però in società complicate come sono i grandi club, in spogliatoi complicati come quelli, se un allenatore non è più in sintonia con il resto dell'ambiente, con la società, con lo stesso spogliatoio, ha anche un senso arrivare a una separazione. Il Chelsea ieri ha vinto senza battere ciglio, per carità, giocava contro una delle peggiori squadre della Premier League, però il sospetto ti viene che gli abbiano giocato contro. Molto più di un sospetto, ci sono anche nomi e cognomi e gli stessi tifosi hanno fatto nomi e cognomi dei giocatori. E li ha fatti anche Mourinho. Quindi esiste un caso limite in cui l'allenatore non puoi più difenderlo, cioè quando una parte della squadra gli è gioca palesemente contro. Aspettate che c'è Garcia, Sky Sport. Ci emoziona ovviamente. La cosa importante per me è che i ragazzi hanno fatto di tutto in campo per vincere questa sera, hanno dimostrato personalità. Nel primo tempo eravamo un po' lenti, una mancanza di ritmo alto, ma è anche una mancanza di fiducia. E dopo il secondo tempo molto, molto meglio, soprattutto perché abbiamo finito 15-20 minuti in 10, in inferiorità numerica. E i ragazzi hanno dimostrato grande coesione, grande unità. E bisogna capire un centravanti quando è in mancanza di fiducia. Sul piano psicologico non è un alibi, non doveva dire niente, ma sul piano psicologico chi ha giocato un po' a pallone può capire la frustrazione di un centravanti. Quindi è soddisfatto di Dzeko? può fare meglio, lo sa lui, l'ha detto lui, faremo in modo di portargli più palloni e soprattutto faremo in modo che ritrova verva, entusiasmo e esplosività fisica. Sì, può fare meglio Dzeko. Un gol su azione, fin qui assolutamente rivedibile oggi. Un cordiale saluto a tutti gli amici di tutti i convocati weekend, in particolar modo al mio elettore preferito, che è Carlo Genzi. Senatore, non l'abbiamo invitata. Allora, io non l'abbiamo dire, invitata. Ecco, appunto, io volevo dire con la mia... È imbucato. Vabbè, no, ci dica sarà lei. Ci dica cosa ne pensa di Dzeko. Allora io vi dico: io non la faccio lunga. Con la consueta sportività e pacatezza che mi contraddistingue, voi lo sapete. Io dico: basta questa classe arbitrale filosovietica. Ma no, gli ha detto le parolacce. No, mi lasci parlare. Allora, a Gervasoni dico che l'espulsione di Dzeko è assolutamente gratuita, giacché nel gergo calcistico fuck off vuol dire, faccio una traduzione semplice. Allora, vorrebbe dire: ti pregherei cortesemente di andare in direzione del fondoschiena, entrandovici possibilmente senza recare disturbo. Non mi sembra assolutamente nulla di scandaloso. No, ma comunque io dico con assoluta pacatezza e sobrietà a Gervasoni: ma vedi in inglese. Eh no, questo sarebbe, voi volete che io dica fuck off? Eh no, è quello un complimento, non va bene. Questo era il nostro Andro Mercù. Allora, aspettando Sarri, che non è ancora passato, saluto intanto Angelo Colombo. Colombo, buonasera. Buonasera a voi. Ciao, parliamo un po' di Milan e di Harry Potter. Cosa chiede al 2016 personalmente anche per la squadra? Una domanda banale che ti devo rispondere. Perché? Salute. A livello professionale intendevo, ovviamente. Ma la cosa più importante è salute, perché se non c'è salute... Questo sì, ovvio. Anche questo è banale, no? Sì. Sul livello professionale, di vincere tutte le partite da qua fino a fine. Questa è un'utopia, no? Star Wars si chiama il film, è il risveglio della forza. La partita anch'io non è il mio genere, però si chiama così. Il risveglio della forza. C'è un po' di sangue. No, non ho mai visto un film di Star Wars, quindi proprio non c'è sangue, a me non mi piace. Ma neanche uno. Neanche uno. Quello è Harry Potter. Mai visto. Io vorrei essere Harry Potter, ma purtroppo non so da che tonaggio. Io sì. Non è che uno arriva con la bacchetta magica, cambia tutto. Quando vinci sei un mago, quando perdi sei, che non si può dire. No, questa è la citazione di un anno fa, quando la bacchetta magica l'avevano data davvero a Inzaghi e ha portato una iella incredibile nella seconda metà della stagione. Allora, Angelo Colombo al telefono, uno che ha giocato con Ancelotti, che da oggi è ufficialmente allenatore del Bayern Monaco, Angelo, per le prossime tre stagioni. Fanno le cose con un po' di anticipo. Sì, fanno le cose con un po' di... ma secondo me anche al Milan fanno le cose con un po' di anticipo, cioè Mihajlovic più o meno sa già che a giugno non sarà più l'allenatore, non lo so cosa pensa Colombo. Ma questo non lo so, sento adesso da lei. Comunque. Però la sensazione che... Sì, vabbè, quello che scrivono, che scrivete voi, che dite voi, ma io dico che ancora non è tutto compromesso, perché la classifica lì davanti è molto corta e tutto è ancora possibile. È ancora possibile, certo, bisogna cambiare, magari giocare un po' meglio e giocare bene, far gol. E magari prenderne un po' meno, perché se dovessimo guardare a proposito di gol fatti e subiti, l'Inter, che è primo in classifica, ha fatto 22 gol contro i 22 del Milan, ma ne ha subiti 9 e il Milan 19. Sì. Ecco, questo è significativo, però l'Inter è primo e non giocando neanche bene, almeno non è un fino bel gioco da a vedere. Due o tre settimane fa, poi qualcosina è cambiato forse. Dunque, se dovessimo dire le squadre che giocano bene, io metterei la Fiorentina primo, poi vabbè, la Roma adesso è un periodo un po' così, ma il Napoli anche alterna molto, ma insomma anche oggi ha fatto una bella partita. Sì, poi sei davanti Higuain, è anche tutto più semplice, non ha segnato per due domeniche e il Napoli ha avuto una flessione, però gioca bene il Napoli, è la nostra favorita da inizio stagione. Io in Italia non cambio nessuno nel reparto offensivo che ha il Milan. con Balotelli quando recupererà il 100%, il reparto, diciamo, secondo me è il più completo e anche per il futuro. Direi dove bisogna migliorare è centrale. Sì, intanto sentiamo Sarri, microfoni di Sky, recuperiamo anche il collegamento telefonico con Angelo Colombo. È importante ricominciare a vincere. Nonostante potete dire, noi non ce la facevamo a essere preoccupati. Anche perché abbiamo fatto, dopo la brutta partita di Bologna, abbiamo rifatto bene in Europa, secondo me abbiamo fatto una buona partita anche con la Roma pur non riuscendo a vincere, abbiamo rifatto bene in Coppa Italia, ad oggi abbiamo fatto una buona partita e secondo me abbiamo fatto anche una grande partita dal punto di vista caratteriale, perché siamo andati in vantaggio, abbiamo preso pareggio in pochi minuti, siamo tornati in vantaggio, abbiamo preso l'espulsione, l'inferiorità numerica, abbiamo continuato a giocare su buoni livelli, siamo andati a 3-1 con la possibilità di andare a 4-1, quindi una buona prova materiale, mentale e caratteriale. Senta, quindi Sarri contento del suo Napoli. Prima di andare in traffico, mi fate chiedere ad Angelo Colombo allora che voto dà Mihajlovic, visto che ha detto, attenzione, non è ancora detto che abbia una traiettoria segnata. Mihajlovic, io lo stimo come persona, come allenatore, non, i risultati non ci sono, il gioco è alterno. Purtroppo vabbè, non do un voto così, ma vediamo che il Milan è diversi anni, insomma, da Inzaghi a Seedorf, purtroppo la qualità dei giocatori è importantissima, ripeto, il reparto dove secondo me non c'è, c'è il futuro è l'attacco, con Balotelli recuperato al 100%, poi bisogna vedere qualcosa a centrocampo e difesa. Cioè, non cambierete tutto l'attacco del Milan con quello del Napoli, con quel mostro di Higuain, sì, ma non con, solo, con Caleon, certo, Insigne, Napoli, Caleon, Mertens, Gabbiadini. Sì, Napoli, il Higuain con i gol di oggi è arrivato, se non erro, sui 50 e passa, sì, gol. 51 insomma, in 86 sì, partite. Ecco, 51 in 86 partite. Ripeto, io con un altro con un centrocampo diverso, magari quello che c'è adesso al Milan, io credo che questi attaccanti che al Milan sono di altissima qualità. Allora, certo, abbiamo... senza infortuni, eh? No, certo, abbiamo il traffico, chiediamo un minuto di pazienza ad Angelo Colombo, poi torniamo e insomma continuiamo a fare una chiacchierata sul Milan, anche al di là delle, insomma, delle banalità giornalistiche, per capire davvero se poi avrebbe eventualmente un senso lo shock di un cambiamento a metà stagione, o se ha un senso andare avanti magari con un allenatore che palesemente non piace più a Berlusconi, perché c'è anche questo tema, traffico. Non dobbiamo pensare, come ho detto anche i miei ragazzi, alle vacanze e tutto, perché c'è tempo per tutto. Tutti convocati. Tutti convocati. Al di là della serenità, che comunque non è che non ci fosse, però era molto importante. Io credo che possa essere uno spartiacque della stagione la vittoria a Genoa con la Sampdoria e le partite che ci attendono. D'altra parte, noi non è che avessimo un percorso più facile dell'altra parte del tabellone. Questo Gagliani, lo spartiacque è la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, che può valere quasi la finale. Allora, ripeto la formazione del Milan a Frosinone: Donnarumma in porta, Abate, Alex, Romagnoli, De Sciglio sulla linea difensiva, Ondà, Bertolacci, Montolivo e Bonaventura a centrocampo, Milan che è schierato con il 4-4-2 e davanti Bacca e Niang. Siamo con Angelo Colombo, meglio Niang o Luis Adriano con Bacca, Colombo? Ma tutti e due di alto livello, con caratteristiche diverse. Abbiamo visto il gol che ha fatto Niang a Genova con la Sampdoria, quel bellissimo inserimento che da dietro, insomma, mentre Bacca, vabbè, ha fatto lui un'azione da sola, insomma, sono due, ripeto, due giocatori di altissimo livello, che si possono benissimo compensare, insomma, con diversità di qualità diverse. Però è vero che una settimana fa eravamo qui a parlare del fatto che doveva giocare Luis Adriano con Bacca per far rendere al meglio quello che è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Milan. Mi sembra che Mihajlovic abbia idee diverse, è anche legittimo che poi vada avanti con le sue idee, eh? Certo, certo, sì. Allora, se dovessimo guardare un po' così le scelte dei giocatori, sì, ci sono state diverse scelte, molti cambiamenti, un po' dovuti anche agli infortuni, ma lui li vede tutte le settimane, vede come si allenano, poi in base appunto anche agli infortuni, ed è giusto che lui faccia delle scelte che secondo lui siano giuste in quel momento. sì, delle scelte che secondo lui siano giuste in quel momento, o delle a prescindere dal fatto che sai benissimo, Angelo, quali siano le pressioni intorno all'allenatore del Milan, perché? Perché ti arrivano consigli, bigliettini, suggerimenti, ma questo già dai tempi di Sacchi, di Ancelotti, eccetera, eccetera. Ma no, ma questa, guardi, questa per queste sono leggende? Io, no. Sì, sì, sono state un po' montate, un po' esagerate, perché insomma il presidente lo conosciamo tutti e dice, esprime il suo parere, il suo pensiero, che mi sembra più che normale, più che legittimo. Poi dopo è sempre l'allenatore che decide, guardi, alla fine è sempre lui che decide. Mm. Perché poi, ripeto, si discute, si parla, ognuno esprime il suo parere, ma poi Mihajlovic, insomma, non è uno che si lascia condizionare o no, le scelte le fa lui. Mi sembra comunque una squadra con poca personalità, cioè possiamo parlare di gioventù, ed è vero, il Milan ce l'ha, perché è vero che ha ringiovanito molto, però mi sembra una squadra, soprattutto a centrocampo, come si diceva, una squadra che di personalità ne ha pochina, cioè non ha i giocatori. Non sto parlando di neanche tanto dal punto di vista tecnico, sto parlando dal punto di vista emotivo. Non hai giocatori che ti prendono in mano la squadra. Sono d'accordo, c'è un livello psicologico, di forza psicologica un po' basso. Questo che dicevo, appunto, bisogna avere vedere un po' per quanto riguarda il centrocampo e la difesa, perché sotto l'aspetto tattico, tecnico ci sono, ma a livello psicologico, che è importantissimo, non c'è questa forza, ecco, non si percepisce questa forza vedendo le partite. Grazie Angelo Colombo. Ciao, grazie mille. Buonasera. Grazie ad Angelo Colombo, che lasciamo Frosinone Milan. Sì, lo Schuster di Mezzago, di una squadra ovviamente straordinaria, lontanissima da quella che è oggi il Milan. Allora, c'è Roberto da Milano che ha chiamato l'800240024. A proposito, noi andiamo avanti fino alle 19. Dopo il GR arriva anche più Luigi Pardo. Arriva un ospite in viaggio verso San Siro. Quindi poi, insomma, scoprirete chi è dopo il GR delle 18. Il Real Madrid ha vinto 10-2 contro il Rayo Vallecano, ma il Rayo Vallecano ha giocato un'ora in 9 contro 11. Vabbè, cosa c'entra? Ed era in vantaggio 2-1 dopo i primi 20 minuti. Sarà mica un campionato. Poi dopo faccio il conto di chi ha segnato i gol. Credo 4 Bale, 3 Benzema, 2 Cristiano Ronaldo, 1 Danilo. Siamo arrivati a 10. Non lo so, aiutatemi col pallottoliere. Comunque 10-2 del Real Madrid sul Rayo Vallecano. Allora, formazione del Frosinone: le ali, Ciofani, Diakité, Blanchard, Pavlovic in difesa, Tonev, Gori, San Marco e Soddimo a centrocampo, poi Ciofani e Dionisi in attacco. Invece per quanto riguarda Torino-Udinese, Toro con il 3-5-2, davanti ci sono Quagliarella e Belotti, 3-5-2 anche per l'Udinese, quindi partita con due squadre a specchio, gioca titolare Totò Di Natale con Perizza. E invece in Sampdoria-Palermo, la Samp, che ha fatto a Roma contro la Lazio il primo punto con Montella in panchina, gioca con il 4-3-2-1, davanti gioca il numero 99 a secolo, Antonio Cassano, gioca con Soriano e Carbonero. Questi sono i tre davanti, quindi Carbonero, Soriano e Cassano. Il Palermo gioca con due punte, Tchaikovsky e Gilardino, dietro c'è ovviamente Franco Vasquez. Questo per quanto riguarda le tre partite che cominciano alle ore 18 e che seguiremo in diretta dopo il GR delle 18. Roberto da Milano. Roberto, buonasera, grazie per avermi chiamato. Innanzitutto, buone feste entrambi. Grazie. Guardo il Milan, dico, adesso leggevo i giornali, dico che oddio, appunto, come sentivo anche adesso, non ha questo gran buon gioco, ha vinto con la Sampdoria, ma non è questa, sappiamo com'è la Sampdoria, ecco, e poi non è competitiva. E poi leggevo che dicevo che può darsi che se passiamo contro il Carpi, bisogna anche vedere, e poi addirittura passando col Carpi avremo o la Spezia o l'Alessandria. Sì, questo è il tabellone. Abbiamo visto in certe partite che Mira con le piccole ha sofferto un po'. Sì, è tutto da vedere, Roberto, però meglio lì che dall'altra parte. Adesso. Sì, certo, avere Carpi, Alessandria e Spezia, cioè, sulla strada della partite, si Italia. Devono giocare tutto, quello che è successo questa settimana lo dimostra. Però. Mi auguro che vada in finale, certo. Mm. Poi dico, riguardo l'allenatore, anche Filippo Inzaghi, quei punti, siamo lì con quel che ha fatto Mihajlovic. Quindi non è sì. questo grande miglioramento, dico, riguardo le no, anzi, sono gli stessi punti. Poi è vero anche che Inzaghi da qui in poi è crollato. Quindi, insomma, c'è da augurarsi per i tifosi del Milan e per Mihajlovic che adesso il conto finisca questa settimana. Poi da settimana prossima e da gennaio anche noi giornalisti ci divertiamo meno a fare il calcolo rispetto ai punti di Inzaghi, che da qui in poi, ripeto, è letteralmente crollato. Però oggi è importante. Io non so cosa succede nel Milan, non dovesse arrivare una vittoria oggi. So che se il Milan non vince oggi, io credo possa chiudere definitivamente ogni ragionamento, sogno sull'inseguimento al terzo posto, cosa che già così è complicata. Oggi è davvero, da questo punto di vista, uno spartiacque. Insomma, io non credo che il Milan... Dai, possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma se si dà un'occhiata alle squadre che ci sono davanti, agli organici, al peso specifico, alla forza, eccetera, insomma, il Milan ha le stesse possibilità che ha Sassuolo, l'Empoli. Sì, non è solo una questione di punti. No, dai, non è solo una questione di punti, Giovanni, è una questione proprio di logica e di buon senso. Allora, noi ci fermiamo qui, adesso c'è il GR delle 18, poi torniamo in diretta fino alle 19, arriva anche più Luigi Pardo, arrivano i nostri ospiti, 800 24 00 24, prenotatevi, così nella seconda ora, insomma, vi diamo spazio per intervenire e raccontarci cosa pensate di questa domenica di calcio, torniamo subito. Ragazzi, ci sono, fra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, se becchiamo, fra poco, Tutti convocati. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Convocati. Deviazione e l'autogol di Bonucci per il gol del 2-3. Incredibile, Bakoku lo mette in mezzo, poi Lollo si divora il 3-3. Incredibile, Buffone arrabbiatissimo, Allegri è arrivato a metà campo rischiando anche l'espulsione. Purtroppo quando arrabbiato non ragiona più, si trasforma una bestia furiosa, Hulk, che scaraventa ogni cosa, butta tutto giù, non ci riflette proprio su. Quella immagine da incredibile Hulk finale. I ragazzi hanno fatto bene fino a 5 minuti alla fine. A 5 minuti alla fine abbiamo fatto un po' di casino. E questo vediamo nel positivo, ci serve da lezione per il 2016. Ma è scatenato e non si fermerà, perché ha la forza di mille uomini. Dov'è finito questo oggetto che hai calciato e soprattutto il cappotto che hai tirato? No, il cappotto è buono, la bottiglietta fortunatamente con il sinistro, di solito di sinistro non calciavo neanche, è andata sopra la panchina, quindi è andato tutto bene. Oh, questa è l'immagine culto della domenica, sì. Allegri furioso. Versione incredibile Hulk per gli ultimi 50 secondi della partita della Juventus a Modena contro il Carpi. Se non l'avete vista, fermatevi, scendete dalla macchina, accendete la televisione, il computer, fate quello che volete, ma scrivete Allegri e troverete. Viene fuori da tutte le parti. Viene fuori da tutte le parti, però fatelo adesso, così abbiamo modo di parlarne fino alle 19. 800 24 00 24, eccolo qui il nostro super ospite Andrea Sorrentino di Repubblica. Buonasera. Ciao Andrea. Di strada verso San Siro. Non esageriamo. È un piacere soprattutto mio, ecco. Ciao a tutti. Allora, intanto 0-0-0-0-0-0, ovvero Frosinone Milan, Sampdoria Palermo e Torino Udinese. Siamo il Milan ci sta provando abbastanza. Il Milan ci sta provando, già un paio di occasioni nei primi 7 minuti. Abbiamo qui anche il presidente che è venuto con noi a seguire Frosinone Milan. Buonasera. Questa partita incredibile. Saluto in particolare particolar modo anche Sorrentino. Mi auguro si comporti in maniera più coesa e molto più positiva. Noi siamo di Repubblica, quindi siamo un po' così all'opposizione. Non è parole di bocca, ma mica. Ma lei deve stare zitto, perché lei è un mio grande lettore. Io non sono il tuo lettore. È andato via, senatore, è andato via. Ho capito, allora mi riberlusconizzo e sono qua. Allora, mi dite qualcosa di questa Lega. Al di là che abbiamo riso tutti come dei pazzi, però questo è davvero forse l'immagine simbolo. Juve, settima vittoria consecutiva, squadra che era un po' sulle gambe alla fine, anche psicologicamente, ma è chiaro, cioè questi sono i rischi delle grandi rimonte. Sì, beh, la grande rimonta ti impone l'apnea, e quindi è chiaro che arrivi un po' così con l'energia in riserva. Credo che in quello sfogo di Allegri ci sia davvero la sintesi di questi quattro mesi di campionato della Juve, questo stare sotto la sabbia, stare, diciamo, improvvisamente ritrovarsi a essere uno dei tanti e poi fare il cammino, arrivare, rimontare, ritornare lì e per un attimo pensare che tutto quello che hai fatto invece crollerà, e allora arriva lo sfogo anche eccessivo. Costa un sacco di energia, Andrea. Esatto, tutto questo ti costa un'enormità di energie emotive. Mettici anche la Champions League, ma poi, lo dicevamo prima, è come vivere costantemente sopra il filo e non puoi sbagliare un passo. Esatto, e quindi c'è poi quello sfogo quando sei stanco e non hai più energie e i nervi cedono, e c'è lo stracciarsi le vesti, molto classico, no? Molto, un gesto molto da letteratura classica, lo stracciarsi, sì. Più che Incredibile Hulk, secondo me era uno stracciarsi le vesti. Io sono un po' più pragmatico. Noi contemporaneo per mesi lo ricordi Pozzecco, sì, con Pozzecco risultati diversi che, risultati diversi. Beh, in che senso? Beh, insomma, che Allegri mi pare che abbia certificato nelle ultime settimane di avere pienamente sto parlando di risultati sportivi, sto parlando di vestiario. Lì si era stracciato la camicia, la camicia credo fosse saltata, mentre ci ha raccontato Max Allegri la giacca ha tenuto in qualche modo con le cuciture, così come sta tenendo la difesa del Frosinone, anche se a fatica, perché è un buon Milan in questi primi 10 minuti. No, dicevo, più pragmaticamente voi volate alto, però mi sembra che Allegri, al di là della valutazione tecnica su cosa è oggi la Juve, su cosa potrà diventare, oggi ha anche risposto a tutti quelli che continuano a dire che lui è mollo, che Conte era un'altra cosa, che urlava, li spronava. Io non so oggi cosa sia successo negli spogliatoi 30 secondi dopo quella scena. Bonucci, no, credo. Queste sono quelle leggende che passano, no? A un certo punto si comincia a dire che Conte è uno intenso e Allegri è uno che ride troppo e quindi non ha intensità, e quindi il concetto passa. Ma poi abbiamo visto Allegri guidare la Juventus per un'intera stagione, quella scorsa, con i risultati che ha avuto, e non si può ottenere i risultati che ha ottenuto la Juve lo scorso anno con un allenatore molle. Quindi questa è una clamorosa fesseria. Secondo me addirittura Allegri invece ha qualcosa in più di Conte a livello di gestione psicologica del gruppo, perché lui magari conosce, sa cadenzare i propri suggerimenti, magari non tiene la squadra sempre costantemente bravissimo a leggere la partita, perché poi tante volte diciamo ma guarda, ma ha messo questo e ha risolto la partita, che culo. Invece no, perché insomma le prove sono tante, ma è una sua caratteristica. Ma certo. Intanto punizione di Pavlovic, palla di poco alto sopra la traversa di Donnarumma. Prima un amico scriveva 349-238-6666, sms e whatsapp, diamo anche di nuovo il numero di telefono 800-24-0024, chiamatevi, prenotate, stiamo qui fino alle 19. Attenzione, intanto miracolo di Donnarumma, anche se il gioco era fermo. Ecco, chiedeva se Donnarumma è la rivelazione di questa stagione in assoluto. Ma adesso che andiamo a mangiare tutti il panettone, se vogliamo fare una classifica, per l'età che ha non c'è alcun dubbio, è un fenomeno, perché non sembra un bambino, invece è un bambino, e sembra invece un uomo maturo, un giocatore maturo, uno che sta lì da 10 anni. Quindi quando succedono queste cose, secondo me siamo sempre in presenza di qualcosa di fenomenale, come nel caso del primo Buffon. Intanto era fuori gioco il numero 9 del Frosinone Ciofani, però Donnarumma era andato giù bene. Samuele da Pesaro Urbino, Samuele. Sì, buonasera. Eccoci. Volevo parlare un attimo del Milan, sito dei precedenti interventi. Posto che non sono non voglio passare da grandissimo esperto né da allenatore, perché non lo sono. No, ma nemmeno noi, quindi vai tranquillo che sei in famiglia. Ma io sì, a dire la verità. Ah no, beh, certo. Sì, certo. No, puoi dire tranquillamente. Mi faccio solo una domanda. Sì. Prima avevo dei sospetti, tra virgolette, chiamiamoli così, rispetto ai vari allenatori che si sono susseguiti, però visto che diciamo il canovaccio non è cambiato, adesso secondo me c'è da dare una risposta forte rispetto a questa domanda che appunto o analisi che sto per fare, ossia io vedo che nel Milan negli ultimi 2-3 anni, specialmente per quanto riguarda il centrocampo, non c'è un singolo giocatore che ha il coraggio, perché poi si parla di coraggio, di saltare l'uomo, di farsi vicino al compagno per prendere il pallone. Queste nel calcio di oggi secondo me sono cose che tendono a fare un pochino la differenza, sì. E si vede uno, sì, su tutti, se posso dire, ma non per darla croce addosso, è Montolivo è un giocatore che, per come la vedo io, tende un pochettino a fuggire dalle sue responsabilità, prende la palla, la tocca due volte, la scarica e finita. Sì, c'è anche quindi Bonaventura nel centrocampo del Montolivo. Milan, eh. Montolivo è un po' mezze maniche, questo l'abbiamo sottolineato. Ecco, chiedo scusa, ma il Sorrentino è andato in crisi, gli stanno cadendo tutti i possibili oggetti dalle mani. Evidentemente ha qualcosa. No, è il discorso su Montolivo che mi ha un po' così. Ma non solo, io vi correggo, scusate, perché non soltanto lui, voi dite che non salta l'uomo, sì, però salta un sacco di partite. Sì, no, quindi non potete, non si può adesso, ha dato una gamba però per la nazionale, adesso è stato preferito a De Jong ormai da, ecco, Mihajlović, insomma Mihajlović ha fatto delle scelte precise, Montolivo anziché De Jong, e quindi ha una squadra diversa a centrocampo, da lì scaturiscono tante cose. Sì, poi quando giocava De Jong l'abbiamo criticato perché non c'era il regista che era in grado, certo, almeno di mettere il pallone con un lancio. Intanto Frosinone che sta piano piano cominciando, sì, a venire su, comunque, siamo comunque intorno al quarto d'ora, 0-0 Frosinone non è Milan, Donnarumma sta diventando protagonista, 0-0 anche Sampdoria-Palermo, 0-0 Torino-Udinese. Facciamo il traffico, poi torniamo, arriva anche più Luigi Pardo. Traffico. C'è stato appunto questo brivido finale del Carpi, insomma Allegri non sarà molto contento. No, sappiamo che le partite così sono sempre difficili, perché quando sbagliamo qualcosa e tutti i tifosi sono con loro è più difficile per noi, dobbiamo essere concentrati, però abbiamo vinto, questo è importante. Tutti convocati. Tutti convocati. Sempre 0-0, tutte e tre le partite. Eccolo qui Pierluigi Pardo. Intanto grande parata su Totò di Natale, grande parata del portiere del Torino. Comunque 0-0. Ciao Pier. Ciao, come va? Bene. Non so se sei sopravvissuto allo sfogo di Allegri, o se ti ha colpito, perché stiamo qui tutti a chiederci, c'è Andrea Sorrentino, c'è il presidente Berlusconi. Buonasera Pardo. Buonasera presidente. Abbiamo aperto questo grande sondaggio su dove si è finita la bottiglietta, ha segnato Daniel Ciofani. Qui adesso dobbiamo prendere, buttare via tutta la quarta. Dobbiamo prendere, buttare io via lo tutta sapevo, la scaletta. Io lo sapevo, Pardo è una mela marcia. Appena entrato in trasmissione mi ha fregato. Vergogna, comunisti. Ma è anche un suo dipendente, scusi. Vabbè, cosa c'entra? Non dovevo... scusi. Esatto, questo è un ragionamento che dovremmo fare. Presidente, ma gli ascolti vanno bene facendo le corna per ora. Sì. Che fa? No, buona difesa del Milan, ecco, Ciofani sul filo del fuorigioco del Milan, tra i due centrali del Milan passava tutto l'esercito sovietico, con i carri armati, cioè una distanza tra Alex e Romagnoli improbabile, no Sorrentino? Ma poi è una coppia abbastanza mal assortita di suo, perché sappiamo tutti che Romagnoli avrebbe bisogno non di un Alex ma di un Baresi al fianco, tanto ma per... sì, questo è chiaro. Ma quindi... al limite prefiero di un Mexes. Sì, perché Baresi, adesso torniamo poi a parlare del grande Mia, possiamo farlo, l'abbiamo fatto prima con Angelo Colombo, però oggi quella è la rosa e c'è da capire se in quella rosa esiste qualche possibilità un po' più funzionale. Scusi, mi metti vicino Miranda, posto che anche Romagnoli non è il problema, sì, ma Miranda gioca nell'Inter. No, ho capito, però mettigli vicino uno come Miranda e vedrai che Romagnoli, sì, infatti Burillo cresce come eccellente. Il problema giocatore è che Romagnoli è stato pagato per essere lui, ho capito, quello che cambiava la difesa, ma poi non credo me... subito però Pier, ma, sì, no, ma infatti, ma io guarda, io ti dico, secondo me abbiamo parlato lungamente del Milan questa settimana, il Milan quest'anno ha fatto una campagna acquisti di prospettiva, quindi secondo me ci vuole un po' di pazienza in assoluto, non ha... cioè, si può criticare ovviamente il Milan per mille motivi. Secondo me nel passato ho spesso cercato la scorciatoia, la via breve, il colpo d'effetto, la figurina invece di risolvere i problemi. Quest'anno ha speso molto, forse ha speso troppo su alcuni giocatori, però ha speso, questo è indiscutibile, e ha speso per dei giocatori che in prospettiva potrebbero rappresentare il futuro, e tra questi c'è sicuramente un giocatore che oggi per esempio alla Roma avrebbe fatto particolarmente comodo, no? E che secondo me rappresenta il futuro dal punto di vista difensivo del calcio italiano, quindi sono d'accordo con te, solo che se fai un investimento di questo tipo speri che possa funzionare da subito. Sì, lo raccontiamo questo gol, perché giustamente chi ci sta seguendo non l'ha visto, anche se lo invitiamo a scendere dalla macchina e a cercarsi anche il gol di Ciofani, così poi ha tutto il quadro completo. Comunque c'è stato questo taglio tra i due centrali del Milan, che erano distanti credo 20 metri l'uno dall'altro. Pazzesco. In mezzo c'era l'attaccante del Frosinone, è arrivato al limite dell'area di rigore e ha battuto Donnarumma, quindi 1-0. Facciamo Geremia dalla provincia di Teramo, che un po' che aspetta. Geremia, eccoci. Buonasera. Senta, Allegri, no, parlavate di Allegri. Sì. Allegri, quando ha visto che la sua squadra era in difficoltà, perché a un certo momento nel secondo tempo è andata un po' in difficoltà, non l'ha vista. Sì, nel finale. Nel finale. Lui deve cambiare il centrocampo, ce li ha, c'ha Samuà, c'ha Sturaro. Ma sì, e c'ha delle persone che possono mantenere il centrocampo. Lui ha perso il centrocampo e si è trovato in difficoltà. E per me è un somaro, perché ha una grande squadra. È un somaro Allegri. Ha vinto la settima partita consecutiva. Magari vince il campionato pure quest'anno. No, andare in finale di ma somaro, lui ha una grande squadra. Lui ha una grande squadra. Ha ragione. Ora che ci penso, perché il Carpi si sa che prima del gol del 3-2 ha costruito circa 15 palle gol, no? Certo. Geremia. Carpi, la partita prima, si vince al centrocampo. Sì, ma la vinta, la partita era morta, era morta e sepolta. Senza il centrocampo non farà mai gol. Va bene. Guardi, io che le devo dire? Va bene così. Secondo me oggi Carpi-Juve era una partita finita, nella quale Bonucci parla... Sì, però il centrocampo ha cambiato l'attacco quando lui doveva cambiare il centrocampo. Ha cambiato l'attacco per cercare di far gol a Morata, che non segna dal 4 ottobre ed è stato messo Morata in croce. Morata dovrebbe Allegri giocare sempre, più, perché lui sempre può giocare anche. Sì, ma chi esce? Tirare fuori Mandžukić in questo momento è un po' difficile. Poi sono d'accordo anch'io sul fatto che Morata è un giocatore da recuperare. Però in questo lui mi sembra oggi, che Mandžukić stia facendo discretamente. Ma no, ma Mandžukić, ragazzi, ma questo è il campionato di Allegri. Io la penso esattamente al contrario fin di Geremia. Allegri sta facendo un capolavoro. Allegri contro tutto e contro tutti ha scelto Mandžukić al posto di Morata e da due mesi ha delle risposte straordinarie. E tutte le volte che Morata entra, purtroppo per la Juve, dimostra di essere in questo momento un giocatore un po' in affanno. E Mandžukić si sta rispondendo alla grande. Sta cominciando a trovare sempre gli equilibri giusti con gli esterni. Avrà quadrato Lichtsteiner Alexandro, per carità, gente di qualità, non è che ha ragione in questo Geremia, ha uno squadrone, nessuno lo discute, però lo squadrone significa anche saper far ruotare gli uomini, quindi sta facendo cose eccezionali. E oggi la partita era finita, era morta e sepolta. Se Bonucci non faceva un autogol da attaccante, nel senso che fa una roba che... Sì, che se l'ha inventato. Che se l'ha inventa lui quell'autogol... la partita era finita, non c'era un segnale, non c'era una avvisaglia, non c'è stata mezza palla gol del Carpi. Quindi poi lì è successo sicuramente che Lollo poteva fare il 3-3 e la Juve deve ringraziare Dio che sia finita così, e la bottiglietta di Allegri chissà dove è finita. Ma insomma, dire che Allegri è un somaro veramente. Allegri è un bravissimo allenatore italiano, solo che dato che non ringhia, non appende al muro né giornalisti né giocatori, è uno simpatico, è una persona normale. Dopo oggi qualche dubbio. Sì. Aspettate che saluto Alberto Zaccheroni, mister, buonasera. Buonasera. A proposito di allenatori che non attaccano i giocatori. Esatto, mister. Ma è necessario attaccarli al muro i giocatori? Io credo che l'allenatore debba essere leader e non padrone, quindi deve avere un atteggiamento equilibrato, perché l'arroganza a lungo andare negli ambienti, in tutti gli ambienti, non solamente nel calcio, ritengo che non sia positiva, alla fine sia devastante. Poi ogni tanto legittimamente ti girano le palle come oggi pomeriggio ad Allegri, fa parte del gioco. Quando è il momento non è che poi dopo non è che lo veniamo a dire. Ma a te mai è capitato? Alle dai. Televisioni o ai giornali. No, però si può dire adesso, è in prescrizione. Se è capitato. No, devo dire aver avuto fortuna che i giocatori in quel frangente non hanno reagito diversamente. Perché se reagivano magari c'era lo scontro, se avessero reagito erano più prestanti di me, ci avrei rimesso. Ah, ecco perché. Sicuramente. ma è una questione di carisma. Guarda, io l'altra sera ero a cena con Carlton Meyer, ovviamente sì. Mi potrà capire, gli appassionati di basket mi potranno capire, che mi ha raccontato di un time out di Tanjevic nel 99 in nazionale, dove lui si sentiva un fenomeno, pensava di essere il più figo di tutti, lo era probabilmente, anche a punto di vista di talento era straordinario, che a brutto muso gli ha detto: ma chi ti credi di essere, ma che stai facendo? E lui in quel momento gli avrebbe reagito fisicamente, non l'ha fatto, ma perché Tanjevic aveva carisma, come ha carisma Ancelotti anche senza insultare tutti, come ha carisma Allegri, certo, secondo me certo. Era in completo controllo dello spogliatoio, e come ha carisma ovviamente Zaccheroni, cioè l'autorevolezza, essere autorevoli non significa per forza dover essere autoritari. Poi noi nella stampa certe volte tendiamo a confondere le due cose, perché è letteraria la figura dell'allenatore cattivo col mascellone che sta lì, che è il pugno di ferro eccetera, ma vince pure Ancelotti, ha vinto pure Zaccheroni, sì. Ha vinto pure Allegri, non è che c'è bisogno per forza di essere provocatori. Magari Zacri vince anche Allegri, eh. Io allora oggi qui ci stiamo dividendo un po', cioè un tema è se il Napoli può perdere lo scudetto avendo questo Higuain, però anche la Juve a questo punto sarebbe ipocrita stare a raccontare che non sia forse la favorita. Allora come la leggiamo questo finale di 2015? Come lo leggiamo? Ma io l'Inter non la teniamo mai in considerazione, però no, aspettavamo stasera, nel momento in cui non giocava bene, che mostrava evidenti problemi, evidenti difficoltà, è riuscita non prendendo gol, è riuscita a vincere le partite, quindi io penso che l'Inter possa solamente migliorare come prestazione. Come prestazione. Poi dopo come risultati, magari quando migliorerà come prestazione, calerà come risultati. Però l'Inter bisogna tenerla fortemente in considerazione. Una squadra che non prende mai gol. Certo. E ha dei giocatori di qualità e soprattutto di grande forza e di personalità, bisogna tenerla. Ma poi mister, non voglio scomodare Paroloni, no, secondo me lo scudetto uscirà da questa rosa ristretta Inter, Napoli e Juventus, però l'Inter mi sembra, non voglio, ripeto, scomodare Paroloni, però una squadra in qualche modo rivoluzionaria, perché Mancini è riuscito a creare un gruppo che produce sempre gli stessi risultati, che dà lo stesso prodotto cambiando i fattori. Certo. Questo dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista dei singoli interpreti, ed è unica nel suo genere. Ha creato un pensiero unanime all'interno della squadra, che è il principio attivo principale del successo. Noi allenatori dobbiamo trovare un qualcosa in comune con i nostri giocatori per entrare in sintonia. Niente, sta cambiando, quelli che sono in panchina non dico che sono contenti, però lo accettano, nel momento in cui c'è bisogno di loro entrano e fanno la loro parte, e quindi sì, ma quanto si può andare avanti cambiando sempre modulo, formazione, come sta facendo Mancini? Cioè a un certo punto serve un'identità, o si va avanti fino a maggio così? Ma è per quello che io non credo che andrà avanti fino a maggio così, perché diventa difficile. Una squadra ha bisogno di avere i suoi automatismi per sorprendere l'avversario in velocità, con la rapidità di esecuzione. Si cambi sempre, abbiamo visto quando ha cambiato con la Fiorentina, insomma, com'è andata. E per lei qual è la formazione migliore dell'Inter, mister? Così dando un'occhiata alla rosa. No, io non faccio la formazione. Se fossi l'allenatore dell'Inter farei la formazione, ma io non sono l'allenatore dell'Inter, non mi permetto di fare la formazione degli altri. Ma ad esempio, la formazione ideale è sempre quella con i giocatori che in quel momento stanno meglio. Ma ad esempio, cioè Mancini sul tema Icardi, che evidentemente è quello che più ha sofferto in questo inizio di stagione, tanti cambi, cioè quando uno ha Icardi in rosa cosa fa? Cerca in tutti i modi di aspettarlo, oppure in maniera pragmatica si rende conto che la squadra gioca meglio in maniera diversa e fa una riflessione? anche se ci sono le pressioni per far giocare Icardi, che è il capocannoniere, insomma, è più che legittimo. Beh, Icardi ha sofferto soprattutto all'inizio, perché la squadra, l'Inter, faceva fatica a portare la palla nella zona calda avversaria. Lui non è un giocatore che se la viene a prendere la palla, ha bisogno di palle giocabili vicino alla porta. Queste palle in quel momento non arrivavano. Adesso l'Inter riesce a guadagnare maggiormente campo, e per lui ci saranno sicuramente più occasioni per segnare. Sì, e sono forse i gol che servono per davvero dare una dimensione. Vede la porta più di tutti. Sì, sì, certo, ma adesso se uno ha fatto il capocannoniere è difficile che poi si dimentichi come si faccia. Le mie squadre le costruivo, molti dicevano, ma perché noi piace giocare a tre? No, a me piacerebbe difendere 10. Però siccome avevo tre attaccanti che secondo me erano bravi, gli chiedevo di fare soprattutto gli attaccanti. Per sostenere avevo bisogno di 4 centrocampisti, metti un portiere e rimangono 3 posti per la difesa. Quindi allora se trovi l'equilibrio difendendo con 3-4 in caso di bisogno, te lo puoi permettere. Io avevo degli attaccanti che secondo me, solo per fare esempio, senza andare a Udine, solo in Milan, Leonardo aveva pubalgia cronica, Weano si sapeva quanti anni avesse, Biroff se partiva da lontano dalla porta difficilmente ci poteva arrivare. L'unica soluzione mi sembrava quella di accollarmi qualche rischio dietro. Sì, Il mister ha detto, secondo me, la cosa decisiva, che se vuoi è la cosa filosofica che divide gli allenatori che considerano il modulo come un totem indiscutibile e immodificabile. È un vestito che nasconde i difetti ed evidenzia i pregi della squadra. L'allenatore è un po' come un sarto. Sì. Quando Conte arrivò alla Juve, dove era arrivato con l'etichetta di uno che avrebbe dovuto giocare 4-2-4, no? O 4-4-2, comunque con i due esterni. Sì, poi ha fatto tutto il contrario. E si è trovato Vidal. Si è trovato Vidal, si è trovato Pirlo, c'era Marchisio, come fai a non giocare a tre centrocampo così? Assolutamente. Abbiamo 30 secondi, siamo già fuori, c'è il meteo, siamo fuori, Claudio Schiattone ci minaccia, però visto che ha citato Zaccheroni il sarto, io ho 30 secondi per questa risposta. Cioè, con la stoffa che Berlusconi ha consegnato a Mihajlovic, il sarto Mihajlovic come si sta comportando? Lo vedo un cantiere aperto, sta ancora cercando il taglio giusto. Che non è una buona notizia a Milanello e dintorni a dicembre inoltrato. Non è che io sono amico di Saluto come giocatore, però è la realtà. Insomma, il Milan sta cambiando sempre perché ancora non ha trovato la quadratura, spero che la trovi presto, ovviamente, però non ha ancora trovato. Intanto è sotto 1-0 a Frosinone. Ringrazio Alberto Zaccheroni, grazie, è stato mister. Gentilissimo, grazie mister. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Sempre 1-0 il gol di Ciofani, 0-0 le altre due partite. C'è stata un'occasione per Cassano, una bella conclusione dal limite della rigore, palla alta sopra la traversa. Diverse occasioni per il Toro. Torniamo subito. Ma ognuno ha la propria opinione di chi può essere la favorita finale. Io penso che le prime tre squadre saranno Napoli, Juventus, Napoli e Roma o Fiorentina nell'ordine, non lo so, però queste, quindi io credo che le favorite siano loro. Loro pensano al contrario. Vediamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Se l'Inter è una 500, la Juve che macchina è? Ma la Juve è... Qual è la più grande della Fiat? Se no facciamo un'altra pubblicità, possiamo dire che, non so, è una Mercedes, Station Wagon. Ha ragione Mancini quando fa questo paragone automobilistico. Ma io credo che sono due macchine sullo stesso livello, ben attrezzate, e in questo momento loro stanno andando più forte perché sono davanti. Domani convochiamo Leo Turrini per questo momento motori. Momento motori. Momento motori tra Mancini e Allegri. Oggi Tutto Sport fa un pezzettino simpatico per chiedersi se Mancini stava prendendo in giro la Juve, prendendo in giro la Fiat o facendo la pubblicità alla Fiat, perché c'è anche questo tema. Intanto siamo intorno al 34esimo, 0-0 Torino-Udinese, 0-0 Sampdoria-Palermo, ancora 1-0 Frosinone-Milan, gol di Ciofani al 19esimo minuto. Pier, non lo so, tu cosa ti aspetti questa sera dall'Inter? Che effettivamente fin qui ne abbiamo parlato poco. Ma io mi aspetto che vinca, perché ho visto un Inter in crescita significativa nelle ultime gare. Io penso che sicuramente ha ragione il mister quando dice che troppi moduli diversi sono un segno di confusione, ma mi sembra che Mancini la confusione l'abbia superata nell'ultimo mese. Al di là dei moduli, nell'ultimo mese ha trovato delle risorse offensive che all'inizio della stagione non c'erano, sta ritrovando Icardi, ha trovato Ljajic, Brozovic si sta imponendo come un giocatore molto importante. Diciamo, la difesa non ha perso sicurezza e l'attacco ha cominciato ad essere molto più fluido, quindi mi sembra nettamente una situazione in miglioramento. Vediamo la Lazio se recupera un po' di autostima con questa qualificazione sofferta in Coppa Italia, se questa sera riesce a tirare fuori la prestazione dignitosa, non lo so, però insomma, i segnali sono tutti a favore dell'Inter. Sì. La Lazio è un po' migliorata in Coppa Italia, ha giocato forse la migliore partita stagionale con l'Udinese l'altra sera. E poi ha dato dimostrazione di non aver mollato Pioli. Hanno mollato Pioli, non c'è un Felipe Anderson che a San Siro lo scorso anno fece una grandissima partita, potrebbe avere qualche non cosa improvvisamente. Felipe Anderson c'è ancora? È una di quelle meteore del nostro campionato che per due mesi pensi che sia chissà cosa e poi sparisce, ma non è l'unico purtroppo. Beh, l'errore col senno di poi di Otito è stato non aver monetizzato. Probabilmente io lo dico per onestà, è vero che lui non ha fatto gli acquisti che i tifosi volevano in estate e dà sempre la sensazione di non riuscire a fare il passo in avanti, però è anche vero che dal suo punto di vista il fatto di aver tenuto Candreva, che ancora oggi ha offerte, che in passato ne ha avute di molto importanti, e Felipe Anderson è stato un modo per è stato un investimento rinunciare a quei soldi. Differenza, Pier, che Candreva sai perfettamente che tipo di giocatore è, cioè è un gran giocatore. Felipe Anderson, anche pure Candreva non è che stia vivendo un grande momento. No, non sta vivendo un grande momento, però questo capita. Felipe Anderson è comunque uno che ti ha fatto mezza stagione. Probabilmente Lotito ha giocato all in, adesso lo tengo un altro anno, questo mi fa 20 gol e poi, invece di 40 ne vale 50, 60 adesso poi sul mercato le cifre sono tutte teoriche. Non è un presidente commerciante, cioè non è un presidente che vende molto, è un presidente che non compra tanto sicuramente, non è un presidente all'altezza dei sogni, delle legittime aspirazioni dei tifosi della Lazio che vorrebbero investimenti più forti e più profondi. Questo non ci sono dubbi, però cioè, non è una gestione alla Pozzo o alla Preziosi di società che mettono in evidenza alcuni giocatori, li fanno crescere e poi subito monetizzano, anche qui ovviamente legittimamente, perché sono loro e non sono nostri, però ci sono società che fanno questo tipo di ragionamento. Non è la Lazio, non fa trading la Lazio, parliamo qui, siamo solo 24 ore, quindi diamo un senso alla nostra presenza. Intanto sempre 1-0 per il Frosinone, mi sembra che Milan non ci sia tanto in questo primo tempo. Mi sembra sinceramente una squadra che al momento non è particolarmente coesa. Se servirebbe Harry Potter, la bacchetta magica, se aveva sentito, no? Che ieri Mihajlovic... Pensi Capuano che io invece vorrei essere Harry Potter per far sparire Mihajlovic. Come qualche dubbio c'era venuto. Una cosa volevo chiedere a Pier, perché lui ha delle entrature. Che tu sappia, Pier, nella famiglia Cassano in arrivo un bebè nuovo oppure è tutto a posto? No. Tutto a posto. Sì, ma non è, sta dicendo che non è Carolina quella incinta. La stranezza è che stiamo vedendo la partita della Samp, c'è Totò che dall'inizio del primo tempo ha un pallone sotto la maglietta e ci chiedevamo se fosse un televisore. È un ultra 16 nonni questo. Forse quello. Comunque mi hai rassicurato, grazie. Si è fatto una doppia bagnacauda ed evidentemente non l'ha ancora smaltita. Il presidente lei si deve concentrare sul Milan che sta perdendo. Ma purtroppo sono disperato e quindi le sparo anch'io. Dovete capirmi. Tornando invece al mercato seriamente dell'Inter e della Lazio, io finché non vedo Candreva a gennaio all'Inter non ci credo, nel senso che non mi pare l'operazione che con Lotito si possa fare a gennaio. Questo è il discorso. conosciamo le trattative che si fanno con Lotito, sono di solito dei labirinti bui e senza fondo in cui ci si perde spesso, molti si sono persi, a volte l'Inter ne è uscita anche vincitrice, come il caso Pandev nell'anno del triplete o come per la trattativa con Hernanes, che fu un clamoroso successo a sua volta di Lotito, perché poi Hernanes è ceduto alla Lazio dopo molte trattative per 22,6 milioni di euro. Milioni di euro, insomma, è stato l'affare del secolo o del nuovo millennio per Lotito. Quindi, tra l'altro, ricordiamoci sempre che i rapporti tra Roberto Mancini e Claudio Lotito sono terrificanti da una decina d'anni in qua, e quindi è molto molto improbabile che Mancini voglia infilarsi in delle trattative. Mentre mi raccontavano che Toir rimase favorevolmente colpito comunque alla fine dal fatto che Lotito facesse con lui l'operazione di Hernanes, anche aiutandoli, insomma, i pagamenti, sì, adesso è inutile, anticipo, cosa che in parte poi ha anche fatto prendere a Toir certe decisioni di politica, certo, di grande politica calcistica. Io non credo nemmeno a quello che sta dicendo Mancini, cioè che non ha tanto credito nel telefonino, a gennaio farà poche telefonate. Guarda, non lo so, ieri ha detto Pier, quasi che non farà mercato. Bah. Sì, sai, l'Inter innanzitutto ha una situazione di tante trattative, Andrea avrà i dettagli ovviamente una per una, di tante trattative di prestiti con diritti o con obbligo di riscatto, quindi diciamo che ha fatto un mercato parsimonioso, ma in realtà con dei costi che arriveranno, quindi questo non può essere... Esatto. Non può essere sottaciuto. Credo in assoluto però che Toir, se si dovesse trovare, e ci siamo, in questo tipo di situazioni, una squadra che può vincere, che può fare cose importantissime, che può conquistare abbastanza serenamente un posto della Champions il prossimo anno, beh, insomma, eventualmente l'investimento lo farà. Intanto ha segnato l'Udinese, Perizza, 41esimo minuto del primo tempo a Torino, 1-0 per l'Udinese. Prego Pier. Sì, quindi perché credo che Mancini alla fine abbia in questo momento, anche dal punto di vista della forza contrattuale, molto più preso rispetto a un anno fa. Ce l'ha sempre avuto, insomma, ad arrivare a gennaio ha fatto una rivoluzione, in estate ha fatto una rivoluzione, figuriamoci se non ha la possibilità di farla adesso, che sta dimostrando veramente alla Harry Potter di riuscire a fare un'alchimia impressionante. Sorprendente, io credo che vada riconosciuto, così come abbiamo detto, ho detto tante volte che non mi piaceva molto nelle prime partite la qualità del gioco dal punto di vista estetico dell'Inter, però è indiscutibile che Mancini stia facendo un capolavoro, quindi figuriamoci se non avrà la possibilità di chiedere qualcosa. Lui vorrebbe ancora un attaccante esterno, almeno un attaccante estremo, esatto, sì, alla Candreva o anche il Fegulì di cui si parla. Al momento, dalle ultime riunioni operative così programmatiche per gennaio, l'Inter rimarrebbe quasi del tutto ferma, a meno che non ci siano dei giocatori che chiedessero di andare via. Alla fine piccoli aggiustamenti, sì, non appunto, è che serve una rivoluzione epocale all'Inter, servono piccoli aggiustamenti per progredire, ma insomma, esatto, di una tale profondità appunto, è molto completa, sono tutti gli altri che hanno bisogno di, poi sappiamo benissimo, di qualcosa tutti di più strutturale. La storia di queste ultime stagioni ci insegna che quello che possiamo dire, dare per certo, per molto probabile, il 20 dicembre, magari il 20 gennaio, può diventare tutta una fesseria, perché cambiano le situazioni, cambiano i risultati, ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche, e magari fra un mese l'Inter avrà più bisogno di giocatori di adesso. Però al momento si va verso un mercato di gennaio piuttosto bloccato al momento. Intanto Milan che ci sta provando, c'è anche un po' di nervosismo, abbiamo visto due o tre discussioni all'interno dell'area di rigore. Bonaventura adesso ha avuto una discreta occasione, palla murata in calcio d'angolo, adesso l'ennesimo calcio d'angolo, una collezione strepitosa di corner quasi tutti tirati male. Sì, Milan che sta attaccando quasi senza soluzione di continuità, la faccia di Galliani è abbastanza esplicativa, inquadrato adesso dalle telecamere, non tanto soddisfatto, per usare un eufemismo. 800 24 00 24, ci fermiamo, l'ultimo traffico, poi direttamente con l'autostrada, oltre a vedere il finale del primo tempo delle tre partite che si stanno giocando, andiamo a Yokohama. I nostri inviati scatenati, tutti convocati. Convocati. para Neymar, ahí está Messi. Quei tre lì, il Milan, punizione per il Milan, ultimi scampoli. Sì, ultimi scampoli, oramai sono tempo. Assolutamente demotivato. Sì, ma com'è andata la punizione? La punizione è andata malissimo, sono veramente depresso. L'immagine della depressione. Sì. Lo specchio, neppure, la fotografia della sua squadra. E neppure la vicinanza di Sorrentino riesce a tirarmi su di me. Allora, fate qualcosa, ascoltatori. Perché lei, presidente, non è una donna. Perché Sorrentino, invece, la vicinanza di Sorrentino... È tutto... Pardo, che qualcuno mi ha detto, guardi, sappiamo che lei sta contattando Dunga. E io gli ho detto, guardi, mi dispiace, proprio no. Dunga? Casomai Dunga. No. Ma, e con questa battuta io me ne posso anche andare. Allora, io mi dissocio completamente da questa mancanza di rispetto nei confronti di un grande precedente. Allora, diamo il finale di primo tempo. Frosinone Milan 1-0, il gol di Ciofani al 19esimo. Poi è finito anche il primo tempo di Torino-Udinese 1-0 per l'Udinese, il gol di Perizza al 41esimo. Ultime battute, manca davvero qualche secondo, a Marassi, Sampdoria-Palermo 0-0. C'è stata una bella occasione per la Samp con una punizione di Fernando e parata di Sorrentino, che poi è qui adesso per parlare del mondiale per club vinto dal Barcellona, sperando che Filippo Maria Ricci risponda, vediamo se vorrà rispondere. Si sono portati a casa anche il mondiale, ma sì, quello poi è sempre l'olivetta, no? Finale, proprio per dopo la grande stagione si va in Giappone a fare questa passerella. Abbiamo visto ormai da anni che le squadre sudamericane di elite non possono competere con le squadre europee di elite, men che meno con questo Barcellona, che è un caso ormai assurdo. Non c'è mai stata una squadra così, con i tre attaccanti più forti del Sud America, bravo. Tutti e tre insieme nella stessa squadra, e infatti segnano. Senti, ma questo mi intriga, ti piace di più questo Barcellona o quello di Guardiola? Questo ovviamente. Posso stringerti? Ovviamente la questo. Ovviamente stringerti questo. La mano in diretta, perché è una sintesi. E mi sembra più cattivo, più spietato. Esatto. E poi segna gol più belli. Poi segna gol più belli e poi va in verticale. Quelli erano tutti gol meravigliosi. Tutti gol da calcetto, d'accordo, erano bellissimi. Sì. Però quando giocavano sotto ritmo, il famoso tiki-taka, tanto caro a Pardo, a me faceva abbastanza rilate alle ginocchia. Bello quando erano in forma, per carità. Non sto bestemmiando. Tiki-taka sono legato per di nome di trasmissione, ma non è il mio modulo preferito, non l'ho mai stato, anzi mi annoia abbastanza. Detto questo, questa notizia è stato quindi tiki taka t'annoia, insomma. Pardo due punti, tiki taka mi annoia. Facciamo il titolo. Grazie Pier, ti salutiamo. Ciao, grazie. L'hai detto. Il mio calcio preferito è quello dello United di Ferguson. È quel mix di calcio tecnico ma molto fisico che c'è più in Inghilterra mediamente che in Spagna. Sicuramente questo Barcellona si avvicina certamente di più, ma io credo in generale che quello dice Andrea sia verissimo. Innanzitutto, la cosa impressionante rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa è quanto sia cambiato il rapporto di forza tra Europa e Sud America. Questo è impressionante. Siamo arrivati addirittura nel 2010 ad avere una finale con una squadra africana, il Mazembe contro l'Inter, perché la squadra sudamericana, che era internazionale, è stata eliminata. Ma in generale ormai non c'è più partita, e il vero paradosso è che appunto la forza del Barcellona sta nel fatto che i migliori giocatori del Sud America giocano in Europa. Beh, certo. Giocano contro la squadra sudamericana, certo, e la impallinano regolarmente. Questo Barcellona è veramente, ecco, un altro. Vi do due numeri su questo Barcellona. Vabbè, insomma, quinto titolo dell'anno, dell'anno solare. Nel 2015 ha segnato 176 gol, insomma, sono proprio due o tre. Messi, Suarez e Neymar insieme, e considerate che Messi è stato fuori due mesi, ne hanno fatti 134. Il Paris Saint-Germain tutto ne ha fatti 138, il Bayern Monaco 132, quindi questi tre hanno segnato più del Bayern Monaco e poco meno il Paris Saint-Germain. Il Real Madrid, perché tu dici vabbè, giocano in Spagna, giocano nella Liga, lì, oggi insomma abbiamo visto il Real Madrid ha sofferto per battere il Rayo Vallecano 10-2, a parte che ha sofferto davvero, nel primo quarto d'ora era sotto, però insomma, il Real Madrid ne ha fatti 127, appunto, ecco, no, quindi seguendo la vostra provocazione, visto che oggi c'è stato l'annuncio che Guardiola lascia il Bayern Monaco a fine stagione, probabilmente andrà al Manchester City, arriva Carletto Ancelotti sulla panchina del Bayern, io dico attenzione, il triennio fin qui, il biennio di Guardiola, senza la grande affermazione, neanche senza la finale di Champions League fin qui, e quello che ha fatto Luis Enrique dopo di lui sta facendo nel Barcellona, dice che forse anche Guardiola è stato un po' sopravvalutato, un po', mettiamola così, aiutato dalla straordinaria qualità dei suoi giocatori. L'ultima volta che il Bayern Monaco ha fatto l'annuncio di questi tempi con Heynckes, poi ti ricordi come è finita? Triplete. Però io ti dico che Guardiola, secondo me, parliamo dell'esperienza a Barcellona, ha avuto il merito di iniziare un percorso, di iniziare un cammino, dopo i disastri, perché pure l'Ajax ha vinto una Coppa dei Campioni, però insomma ha iniziato un tipo di strada. Secondo me, onestamente, è molto più facile, sarà molto più facile per Luis Enrique continuare questo tipo di percorso, di tragitto, ovviamente con investimenti clamorosi da quelli per Neymar e per Suarez. Insomma, oggi è molto più semplice, oggi il Barcellona ha preso un vantaggio su tutte le altre che è difficilmente riassorbibile. Quindi secondo me Guardiola continua ad avere dei meriti pazzeschi, poi come sempre il calcio è strano, non mi ricordo quando in questi giorni, ma eravamo sicuramente in radio, ha ricordato che tutto nasce dall'Iniesta 93 certo, di Chelsea Barcellona con furto arbitrale mostruoso. Ero presente, fu un furto, l'arbitro ero nel tunnel. Io ero nel tunnel. Ascolta, abbiamo tre minuti. Ci ha raggiunto Filippo Maria Ricci, che saluto e coinvolgo. Hola Filippo. Il Barcellona ci siamo anche stufati di celebrarlo. Allora, la domanda per Filippo Maria Ricci è: come si fa l'11 gennaio a Zurigo a fare la premiazione del pallone d'oro senza avere nei primi tre Suarez? Impossibile, Filippo. Dai. No, è così scatto. Però, siamo, perché poi io ne avevo parlato l'altro giorno, si dice tanto che Ronaldo ha fatto tanti gol, no? 48, oggi ne ha fatti 2, 50, e Suarez è a 46, cioè non è che dici ne ha segnati la metà, e ha vinto qualcosina, solo 4 di meno, e ha vinto 5 titoli. È uno scandalo, voglio dire, perché ben rappresenta quello che è la FIFA attuale. La FIFA è tutto uno scandalo di vario tipo, e questo è un altro. Un branco di Galeotti, o forse il peso di sponsor. Ma se, vabbè, Filippo, ma chi se ne frega di Ronaldo, degli sponsor, vuol dire, è un premio ma ecco, adesso diciamo questo, ma io ho sempre detto che nel 2010 il pallone d'oro di Messi è uno scandalo, cioè, sì, perché come non lo vinca un Xavi o un Iniesta, scegliete voi, è uno scandalo assoluto. Questa è la FIFA, questo è il governo del calcio. C'era anche Snyder nel 2010. Sì, al limite, sì, ecco. Però vabbè, metti che deve vincere uno che vince. Oggi è un premio di marketing. Giocatori, però è un premio di marketing. Sì, insomma, per me addirittura Claudio Bravo lo merita più di Ronaldo, non so, che ha vinto anche la Coppa America con Cile, capito? Cioè, tanti portieri non contano in questo sport, però insomma è così, non c'è niente. Ma un minuto per parlare di questo meraviglioso Real Madrid? Ecco, ti diamo un minuto per raccontarci cosa sarà il menù di Natale di Benitez, che a questo punto credo mangi il panettone, non so cosa Perché si porta? Mangia a Madrid, no, non lo so. Il turron. Mangia il turron. Il turron, sì, un po', sì, meno milanese, però... insomma, si fa quel che allora, si può, Esatto. Ti abbiamo chiamato apposta per... per spiegarci come si dice, ragazzi, è finita 10-2, però il Rayo vincerà 2-1, 1-0 per il Madrid, 2-1 per il Rayo, in 3 minuti gli fanno 2 gol di testa uguali, e dopodiché un po' si suicida il Rayo, un'entrata durissima con espulsione insomma, abbastanza meritata da parte di un giocatore, però poi dopo al 28esimo c'è il colpo perfetto dell'arbitro che è rigore ed espulsione entrambi inesistenti, e da lì il Raio rimane in 9 e finisce seppellito con il Bernabeu che fischia all'impazzata all'intervallo quando il Real Madrid già vince 4-2, escono sotto un mare di fischi. E insomma, qua la situazione è veramente comica. E questo è il miglior club del mondo per sensazioni, per situazioni create, non hanno rivali. Sì, grande reality. Sono, fanno tutto da soli. È un grande reality. Sì, tutto da soli. Vi devo salutare perché ci va fermiamo bene. Qui. Allora, saluto e ringrazio Filippo Maria Ricci. Ciao Pier, domani dopo il GR delle 14. Insieme a Carlo Genta, saluto e ringrazio Andrea Sorrentino. Buonasera e buon Natale a tutti. Che mandiamo a San Siro. Presidente, lo teniamo qui invece per. Se avete bisogno di cuccioli o la casa in festata dei figli di Dudù, no. E quindi se anche Sorrentino volesse un cucciolo, ne ha fatti tantissimi, visto il padrone. Sì. Ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleoni, Roberta Frisani in regia. Domenica prossima riposiamo anche noi, 27 dicembre. Torniamo domenica 3 gennaio con degli ospiti che non vi dico, ma anche perché sono preoccupato. Ci lavoreremo il 2 sono pomeriggio. Sono preoccupato. Ciao a tutti, il Milan perde, state collegati. Ciao. Buon Natale. Grazie a voi, auguri, buon Natale anche a voi.